as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti. Oggi puntata. Oggi parlo io. Sì, perché oggi non ho intervistato nessuno. Volevo farlo. Sono andato a dare una mano al Farneto, dagli sfollati del fiume Zena, la settimana scorsa, e volevo intervistare volontari, volevo intervistare chi organizzava gli aiuti, la protezione civile, ma poi ho pensato che era il caso di fare invece una puntata in cui affrontavamo tutta la questione in maniera tecnica, riportando dei dati. Io certamente dirò questa puntata come la penso su molti aspetti, però abbiamo bisogno di dati, di fatti. Quando si parla di questi cataclismi, quando si parla di clima, quando si parla dei disastri che stanno accadendo, Valencia è da poco accaduto questo disastro scioccante che ha scioccato tutto il mondo, ma oggi parleremo soprattutto di quello che è successo in Emilia Romagna e in Italia negli ultimi anni. Visto che io ho i dati e mi sono, se ce li ho cercati, ma tirati fuori dal governo, poi tra parentesi, dalla giunta regionale, da vari istituti che si occupano di questioni di clima, di ambiente, e io penso che sia dovuto a chi oggi è fuori di casa, chi oggi ha dovuto abbandonare casa propria, chi non ce l'ha più, chi è ormai distrutto psicologicamente per tutte le alluvioni che ha subito negli ultimi anni. Guardate che nel territorio del Bolognese c'è chi ha visto casa sua riempirsi di fango per già la quarta volta in arco di 2 anni, e questo è qualcosa veramente di drammatico, cioè aspetto psicologico che non è da sottovalutare. Ora io vi lascio a una canzone, le mie canzoni preferite, e poi parleremo un po' di quello che dal mio punto di vista è accaduto e perché è accaduto e come dovremmo fare per affrontare tutta la questione che oggi abbiamo davanti. A dopo. job working construction for the Johnstown Company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd take. Those memories come back to haunt me. They haunt me like a curse. Is a dream a lie that don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry. That sends me down to the river tonight. Aye. Down to the river, my baby and I. Allora, abbiamo sentito questo pezzo meraviglioso, poi nella pagina podcast, nella pagina del Pane Rose troverete anche tutti i riferimenti del pezzo. Allora, iniziamo parlando di quello che è accaduto. Allora, sono passati 17 mesi dall'alluvione del maggio 2023. E di nuovo abbiamo assistito il 19 ottobre ad una alluvione che non ha uguali nella città di Bologna. Dobbiamo tornare al 1966, sono al documentario, nel 32, addirittura quella veramente devastante nel 1893. Parliamo di un evento eccezionale, parliamo di 6 ore in cui è caduta la pioggia di 2 mesi. Ed se andiamo a analizzare le responsabilità dobbiamo guardare i dati, come ho detto nell'introduzione. Innanzitutto tra questi dati che io ho trovato c'è una cosa che mi ha fatto subito arrabbiare. Sono stati stanziati 1,6 miliardi di rimborsi dovuti all'alluvione nel 2023, ma di questi 1,6 miliardi solamente 276,18 milioni sono stati poi erogati. L'ERA ne ha presi 45 milioni e le famiglie 7,4 milioni del dovuto. Parliamo del 2,6%. E questo spiega anche la rabbia degli alluvionati. Non c'è solo il fatto che continuamente vedono le case che si allagano, ma anche il fatto che stanno aspettando molti di loro e i rimborsi non sono mai arrivati. E questi sono dati che ho visto dichiarati da Figliuolo, il commissario speciale. Allora, ad oggi sono stati promessi dalla catastrofe che è accaduta in questi ultimi mesi solamente 20 milioni di euro, e dunque il governo sta addirittura tornando indietro rispetto a quello che è successo nel 2023, quando si parla ancora di fondi stanziati. E vediamo che il governo come ha reagito. Musumeci ha detto che praticamente secondo lui bisognerebbe privatizzare la protezione civile, no? Per diventare un business la protezione civile, è l'introduzione di un'assicurazione obbligatoria contro gli eventi straordinari solo per le aziende, per ora, e i privati sono esenti. Adesso bisogna vedere cosa succederà dopo le regionali, vediamo se i privati non saranno obbligati anche loro a questa assicurazione. Ma cosa ci fa capire questa questione dell'assicurazione obbligatoria per le aziende? Ci fa capire che il governo è convinto, visto che vuole risolvere con le assicurazioni, che questi sono casi eccezionali. Dunque basta un'assicurazione e nega dunque il cambiamento climatico. Cioè, dice, beh, questa qua non sono casi eccezionali, uno si fa un'assicurazione, se, come degli incidenti stradali, no? Cioè, la prassi non è che uno fa degli incidenti, ma sono sfighe. Eppure questo Legambiente ce lo smentisce, no? I dati che Legambiente tira fuori dice che nel 2023 si sono verificati 378 eventi estremi meteorologici, circa il 22% rispetto al 2022. Precipitazioni straordinarie che accadevano ogni 200 anni addirittura, oggi sono ogni 8 anni accadono, una frequenza molto molto più veloce. E questo il governo sembra non accorgersene. E non si rende conto che oggi noi abbiamo 8 milioni di italiani che sono fortemente a rischio di essere allagati, alluvionati, di finire come gli abitanti di Valencia. Allora dobbiamo dire la verità, dobbiamo come popolo elaborare una teoria basata sui fatti, partendo da tutte le criticità che stanno portando a queste catastrofi naturali umane, perché sono catastrofi che stanno distruggendo l'ambiente, ma soprattutto stanno distruggendo le città, le persone, uccidono, disintegrano, devastano. Allora, io penso che il primo punto da affrontare sia la questione della cementificazione. Non si può parlare di alluvioni se non si parla di quello che sta accadendo. Non si vuole parlare di cementificazione, perché sappiamo benissimo che spesso, no, quando c'è la crisi, ma non solo, uno dei modi è quella delle politiche keynesiane di costruire cemento, queste politiche economiche keynesiane che portano, no, questo indicatore di sviluppo, no? Se uno costruisce, più cementifica e più fa muovere l'economia. Uno dei dati che mi balza subito agli occhi è che dal 2006 al 2022 sono spariti 76,8 km quadrati di verde all'anno a causa del cemento, e l'incremento della cementificazione del 7% ogni anno. Ora dobbiamo capire un concetto, perché bisogna parlare di cementificazione, è perché dobbiamo dare un dato: il cemento assorbe 7 volte in meno l'acqua rispetto a le zone cementificate, le zone urbanizzate assorbono 7 volte in meno l'acqua rispetto a un terreno agricolo, ad esempio, o un bosco. Noi dobbiamo ricordarci, ad esempio, che nel 1979 in Emilia Romagna cadde tantissima pioggia, forse la quantità uguale se non maggiore di quella che è successa nel 2023-2024, ma non è accaduto quello che è successo adesso. Perché? Cos'è successo? È che l'Emilia Romagna è stata super cementificata. Dai, solo la logistica si è mangiata dal 2006 al 2022 843 ettari, su di capannoni di logistica. Si è costruito ovunque, per non parlare di ipermercati e di supermercati. La giunta regionale nel 2017 aveva approvato una legge che limitava la cementificazione, e questo non è stato rispettato, perché dal 2020 al 2021 sono stati più 658 ettari in più rispetto all'anno prima di cemento, e anche nel 2020 si è avuto un aumento. E poi un'altra cosa che io non sapevo è che la giunta regionale nel 2023, poi durante l'alluvione, non so se è successo prima o dopo, ha tolto all'agenzia ambientale regionale la competenza di pronunciarsi sui piani urbanistici comunali. Questo non aiuta certo la lotta alla cementificazione. Da una parte si fa la legge nel 2017 per fermare la cementificazione, non si riesce, e nel 2023 si toglie la competenza all'agenzia ambientale regionale. Io spero che l'abbiano fatto, perché questa agenzia in realtà non stava funzionando, ma io vogliamo vedere se veramente questo avverrà, cioè che in Emilia Romagna si cercherà di togliere la cementificazione, di recuperare cemento, che ormai ci sono tantissime zone in cui sono capannoni abbandonati, che sono lì, sono territori che potrebbero essere recuperati. Ad oggi sono 900 cantieri in Emilia Romagna per la messa in sicurezza, ma in realtà 394 sono ancora in fase di progettazione, e questo non ci fa ben sperare.

per la stragrande maggioranza è quella di creare questi argini, no? E abbiamo questi canali che scorrono, ormai li vediamo, sopra il livello delle strade, della pianura, anche delle città. Questo accade soprattutto in pianura padana. Che senso i torrenti? Effettivamente ha molto senso fare una pulizia dei torrenti, questa è una cosa risaputa, togliere gli alberi, il legno, per evitare che si vengano a creare dei tappi. Certamente per quanto riguarda quello che sta accadendo sui fiumi, questi argini, la cosa più intelligente da fare in questo momento, o si ritorna a un'economia rurale, o si ritorna a un'economia in cui si concedono terreni ai fiumi e si ritorna indietro, no? A ragionare come era una volta, con tutti dei problemi legati all'economia, cioè non possiamo pensare di eliminare tantissima terra coltivabile, perché questo accadrebbe, ma dobbiamo ragionare su certamente il cambiamento climatico, ma dobbiamo ragionare sulle cose importanti da fare. Certo, la pulizia, abbiamo detto, non è una cosa da non fare, ma certamente le casse di espansione e le vasche di laminazione sono necessarie più che mai. Però per fare questi lavori che andrebbero fatti di potenziamento della capacità dei fiumi e ridare la possibilità ai fiumi di avere degli sfoghi per evitare questi tsunami che avvengono, perché vi ho detto, questi canali si ingrossano, sono alti, diventano ancora più alti, si riempiono questi argini, rompono gli argini e abbiamo delle onde enormi di fango che arrivano improvvisamente. Successo anche a Valencia, che in pochissimo tempo riempiono tutto. Non è come una volta in cui, quando straripava il Po, era piano, lento, c'era un aumento piano dell'acqua, in cui si permetteva alle persone di poter sfuggire. Oggi arrivano, questi argini sono altissimi, sono i veri e propri tsunami di fango che vanno addosso alla popolazione improvvisamente. Servono 26,5 miliardi per fare tutto quello che andrebbe fatto, secondo i geologi, e creare tutto un sistema tale per evitare queste catastrofi. Però fin quando il nostro governo impiegherà 30 miliardi per la difesa, per finanziare la guerra in Ucraina, ogni anno, queste sono spese nel 2023, 32 miliardi, non riusciremo mai ad avere questi 26,5 miliardi che servono per fare questi lavori che sono necessari per salvaguardare i terreni agricoli, le città, la vita delle persone, le nostre comunità. Ecco, ma noi dobbiamo far sì che solo se riusciremo veramente come popolo a fare una battaglia per chiedere che i soldi vengano utilizzati per questi, che tirino fuori questi soldi, questi 26,5 miliardi, diamo forza ai geologi e agli ambientalisti che vogliono veramente salvare il nostro pianeta, la nostra regione, la nostra nazione, le nostre città. Dobbiamo lottare, perché questo governo pensa alle assicurazioni, a privatizzare la protezione civile, insomma, bisogna che ci organizziamo per far questo. Questo è l'appello che voglio fare e con questo vi saluto. Get up, stand up. begging you to stand up for your rights. Oh, yo, I say get up, stand up. Won't you ever, never give up the fight.